223. Bocconi di pane ripieni. Se scrivessi in francese, seguendo lo stile ampolloso di quella lingua, potrei chiamare questi bocconi bouchées de dames, e allora forse avrebbero maggior pregio che col loro modesto nome. Prendete un fegatino, due di pollo, qualche animella, e se lo avete un ventriglio di pollo o di tacchino, che non guastano. Ma quest'ultimi che son duri, lessateli prima, a metà, e levatene il tenerume. Tritate il tutto con la lunetta, mettetelo al fuoco con un battutino di cipolla, prosciutto, un pezzetto di burro, e conditelo con poco sale, pepe e odore di noce moscata o di spezie. Quando comincia a grillettare, versate un cucchiaino scarso di farina, mescolate perché si incorpori e poi bagnatelo con sugo di carne o col brodo. Fate bollire e quindi versateci dentro a poco per volta un uovo frullato e rimestando sempre lasciate che il composto assodi, ritiratelo dal fuoco, aggiungete un pizzico di parmigiano e versatelo in un piatto. Ora prendete una pagnotta di pane raffermo, tagliatela a fette grosse un centimetro scarso, levatene la corteccia e fatene dei dadi larghi come un pezzo da 10 centesimi o poco più. Mettete abbondantemente il composto sopra i medesimi da una sola parte e questa mezz'ora prima di friggere infarinatela e distendete i pezzetti del pane sopra un vassoio. Versate loro sopra dell'uovo frullato in abbondanza, onde il pane si inzuppi e il composto resti coperto e ben dorato. Gettateli in padella dalla parte del composto stesso. Vi prevengo che questo fritto fa molta comparita, talché con le rigaglie di un pollo e 2 o 3 animelle di agnello potrete ottenere 20 di bocconi, i quali misti a un fritto di cervello o d'altro piaceranno molto. Si può fare anche a meno delle animelle. L'odore dei tartufi, se li avete, non potrà far che bene.